non era scontato, perché la campagna della destra è stata molto, molto aggressiva, molto, molto aggressiva. Non si era mai vista una campagna elettorale a quei livelli lì. E in più il fatto che il fronte progressista nella prima tornata elettorale era stata molto, molto, molto divisa, c'erano 4 candidati, e quindi questa volta ha vinto il buon senso dell'unità. E in più c'è stata una reazione molto, molto bella della popolazione cilena e dei giovani soprattutto, e poi dopo sono venuti a votare. Questo è importante, perché c'era stata un'attenzione del 51%. Il vincitore Boric chi è, insomma, che curriculum ha? Questo è un personaggio che è nato dalle lotte studentesche, della famosa ondata che c'è stata, che li chiamavano i pinguinos, per l'uniforme che avevano, no? Era bianco e nero, le ragazze e i ragazzi una giacca azzurra, perché là in Cile era obbligo l'uniforme nelle scuole medie. Da lì viene fuori con una piccola organizzazione. Queste piccole organizzazioni nuove hanno fatto una cosa che si chiama Frente Amplio. Questo Frente Amplio ha fatto una unità di carattere programmatico con il Partito Comunista Cileno e hanno creato un cartello che si chiama Approvo Dignità, e con questo loro sono andati alle primarie che ha vinto Boric, e da lì viene fuori la formazione sua. È una formazione di sinistra, di carattere moderato, possiamo dire socialdemocratica, però del modello nordico, non della socialdemocrazia che noi conosciamo qua nel Mediterraneo. Loro hanno un programma ecologico molto avanzato, pone il problema dell'acqua, perché tu sai che noi in Cile abbiamo un po' il problema dell'acqua che è privata totalmente. Hanno un programma di questa natura, quindi questo è stato possibile. Poi si è rivelato, pur con la sua giovane età di 35 anni, un personaggio molto deciso, perché nei dibattiti televisivi che ha avuto con il CAS, che è un navigato politico di destra, loro hanno formato un partito repubblicano a somiglianza del Partito Repubblicano americano, però alla somiglianza del partito di Trump, per questo ti dicevo prima, molto aggressivo. E proprio a proposito di Cast, insomma, lui era nostalgico del periodo di Pinochet, insomma, e non era destra moderata, questa era destra radicale. No, lui non ha mai rinnegato il regime. Mai, anzi, ha detto che molte cose che dicevano della dittatura di Pinochet non erano vere. Poi il padre di lui era un ufficiale nazista che era fuggito nella Seconda Guerra Mondiale ed erano stati implicate in un famoso massacro che si chiama il massacro di Paine. Paine è una piccola cittadina vicino a Santiago dove erano stati ammassati 8 contadini. Il curriculum familiare di questo personaggio. Con la cancellazione della Costituzione di Pinochet e con questa nuova vittoria alle presidenziali, il Cile può considerare chiusa la pagina del suo passato? Con la nuova Costituzione io penso di sì, e bisognerà stare allerta. Abbiamo già avuto l'esperienza del governo di Allende. La destra non rimarrà con le mani in mano, con il sostegno che anche a livello internazionale cercheranno di creare dei problemi. Da qua d'Italia loro hanno avuto naturalmente il sostegno del signor Salvini, che ieri ha fatto circolare un video in sostegno al nazi. È una cosa anche preoccupante per l'Italia, dovete stare attenti anche qua, perché purtroppo la situazione è quella, e quindi bisogna cercare l'unità la più vasta possibile e non abbandonare la lotta, non abbandonare le strade. Il popolo cileno deve rimanere molto vigile su questa situazione qui.